E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e 5 minuti primi appunto di questo mercoledì e qui inizia la conta trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa, quella che va in onda appunto ogni mercoledì dalle 15 alle 16. La conta perché parla di carcere, parla contro il carcere, parla di quelle persone appunto detenuti e detenute che sono le persone più contate, perché vengono contate 4 volte al giorno, ma che contano di meno, perlomeno in questa società e in questa situazione. Contano poco finché non alzeranno la voce, come è successo altre volte, quando alzeranno la voce e si faranno sentire sui tetti delle carceri, come è successo una volta, con le grida dai finestroni, insomma. E noi ovviamente staremo al loro fianco, stiamo già al loro fianco e infatti oggi cominciamo subito la trasmissione, che vedrà due parti come sempre. La prima, ci occuperemo della iniziativa che c'è stato il fine settimana scorso, quello appena passato, che avevamo già raccontato mercoledì scorso, un'iniziativa interessante sostanzialmente contro l'ergastolo. L'obiettivo era contro l'ergastolo, però fatto in maniera un po' nuova, non con il solito convegno, che pure se ne fanno tanti, o col seminario, con la discussione eccetera, ma con l'individuazione di un luogo simbolo, il carcere di Santo Stefano, addirittura l'ergastolo di Santo Stefano, così è stato chiamato, una costruzione di oltre 200 anni fa, in epoca borbonica, in quella di nell'isola di Santo Stefano, appunto adiacente all'isola di Ventotene, l'ergastolo appunto, che era stato fatto con principi talmente moderni che fa paura a vederli, sembra un carcere attuale di quelli funzionanti oggi. E l'andata di alcuni compagni e compagne, di cui due stanno qui e ci racconteranno questa esperienza, voleva rappresentare intanto appunto la lotta, un'iniziativa contro l'ergastolo, anche perché quell'ergastolo particolare, quello di Santo Stefano appunto, ci sono passati tanta gente, anche persone famose, che ne so, Ernesto Rossi, Sandro Pertini, molti antifascisti, perché funzionava a pieno ritmo in epoca fascista, aveva questa caratteristica ancora, cioè adesso non funziona più dagli anni 60, però aveva adiacente all'ergastolo il cimitero, perché appunto l'ergastolano era quello che non usciva mai dal carcere, ci usciva solo, come si dice a Roma, coi piedi avanti, cioè è morto. Solo quando era morto poteva uscire dall'ergastolo, e allora si era fatta adiacente a quello un cimitero con queste tombe che poi sono state abbastanza abbandonate e lasciate lì. E poi per iniziativa di un personaggio famoso per altri motivi, no? Veronelli, famoso enologo italiano, che però era anche un compagno, era, perché è morto, e aveva lui iniziato, voleva dare un nome a queste tombe che avevano così abbandonate in questo luogo deserto appunto dell'isola di Santo Stefano, dare un nome a queste persone e cercare di riabilitare almeno sul piano della memoria il problema dell'ergastolo. Bene, io la fermo qui e saluto intanto i due compagni che sono qui, Valentina, una compagna della radio che conoscete, ciao. Ciao. E Giacomo, un compagno che è andato a questa iniziativa, un libero pensatore, ti chiamo così, un libero. Bene, intanto, allora, com'è andata? Intanto quanti eravate? So che stavolta era numerosa la presenza, questa presenza a Santo Stefano, quindi raccontateci la composizione e diciamo come tu sei la prima volta che ci andavi, no? Quest'anno è stata la prima volta. È stata un'esperienza direi unica. Siamo partiti in circa una trentina da quasi tutta Italia, chi da Napoli, chi da Milano, Genova, Toscana. E ognuno autogestito è partito da solo con l'idea di andare a dare un nome, a portare un fiore in cima a queste tombe oramai lasciate a se stesse. E sì, come dicevo prima, è stata un'esperienza unica, perché l'emozione di arrivare in un posto del genere con una prigione che sta cadendo a pezzi, distrutta, è molto difficile, perché fino ad oggi non siamo riusciti, almeno per quanto mi riguarda, a capire bene quello che abbiamo vissuto, perché è stata un'emozione veramente fortissima. Per me era la seconda volta, quindi è stata un'emozione diversa, forse non è stata proprio completamente diversa, perché lo scorso anno eravamo 4 persone, quindi questo piccolo gommoncino, delle 4 persone io ero la sola che non aveva mai visitato quel posto, quindi capisco la tua fatica a parlarne, perché ci ho messo anch'io la prima volta tanti giorni. Quello è un posto complesso in tutta la sua forma, sia l'approdo in quell'isola, che già ti fa capire, no, come è potuto essere per 200 anni, sia quella lunga salita che se la si fa con Salvatore, non te, ma un altro grande Salvatore, che fa la guida, custode, guida e anima di quel posto, il solo insieme a sua sorella che da anni si prende cura, non tanto quanto possono due persone prendersi cura di un'intera isola, perché quindi un po' di fatica, ma si prende cura delle storie di quel posto, della memoria di quel posto, quindi ci porta le persone e fa un grande lavoro di ricostruzione di quelle storie, lui ed altri strani bei personaggi che si aggirano su Ventotene, tra Ventotene e la Liguria. Ovviamente è un posto che portando, ti sei scordato un nome illustre e caro a noi tutti, che è Gaetano Bresci, Gaetano Bresci. Che quindi ovviamente ha dato un apporto di studi di alcuni anarchici italiani attualmente, che hanno permesso anche, appunto, come dicevi te, su Veronelli, enologo anarchico, di ricostruire un po' la storia di quelle 47 croci. Anche Mariani ha scritto anche un libro a memoria, appunto, della sua permanenza nell'ergastolo. Ho voluto nominare Salvatore perché lo scorso anno, quando siamo arrivati lì, era un po' prima, era la fine di maggio, quindi ancora la stagione non era completamente iniziata in quelle splendide isole. Quel cimitero era completamente diverso, come l'hai visto tu, c'erano tutte le croci a terra, c'era l'erba alta, ci siamo graffiati tutti per riuscire a mettere due fiori che non si vedevano nemmeno in quella sterpaglia. Quest'anno già Salvatore ci ha fatto trovare, per me ho avuto 10 minuti di silenzio, perché il cimitero era bellissimo, era tutto pulito, era stato già da lui rimesso a posto, e noi, grazie al lavoro che si era stato fatto, insomma, via strani contatti in giro per l'Italia, avevamo preparato queste targhette, quelle possibili attraverso la mappa che ci ha lasciato Veronelli, che descrive i nomi. I vari gradini che si scendono e come trovarli, quindi probabilmente con qualche errore di posizionamento, perché vacci a capire, siamo riusciti a rimettere quasi tutti i 47 nomi, tranne quelli delle tombe distrutte già all'epoca di Veronelli, quindi di cui non si ha almeno traccia. E insomma, con l'idea di fare anche tanto altro, cioè l'idea di ricostruire molte di quelle storie, insomma, quello è un luogo simbolo, dicevi tu, abbiamo ricordato, cioè fatto una pagina di lotta contro l'ergastolo, non chiusi in una stanza, non con una petizione, ma con pala e piccone a mettere un po' di fiori. Anche quindi, perché io immagino, sento te Giacomo, a parte il cimitero, no? Che sta prospiciente all'ergastolo, l'edificio, quel ferro di cavallo, estremamente moderno, perché addirittura pare che quel architetto, di cui non ricordo il nome, napoletano, perché appunto di età borbonica, che l'ha progettato, è stato addirittura precedente la teorizzazione di Bentham, che teorizza il panopticon, no? Cioè quel meccanismo, appunto, che, su cui poi verranno costruite tutte le carceri europee, cioè il sistema per cui il controllore controlla tutti e i controllati non vedono il controllore. E quel meccanismo, perlomeno secondo appunto lo stesso Salvatore e altri studiosi, quando ci sono stato io l'altro anno, dicevano che probabilmente lui ha riprodotto il San Carlo di Napoli, che tutti conoscono, il famoso. Le piantine sono proprio sovrapponibili, quasi in buona parte sovrapponibili. Esatto, le sono molto perché il meccanismo del palcoscenico è quello: chi sta sul palcoscenico vede tutti gli spettatori. Gli spettatori vedono colui che sta sul palcoscenico, cioè però i pochi sul palcoscenico vedono i tanti, è così il meccanismo. Poi Bentham ha teorizzato questo meccanismo del controllo, però per Bentham ci ha messo un elemento di carattere, diciamo, psicologico, ossia che il controllato, il prigioniero, quindi sapendo di essere controllato, introietta questo meccanismo del controllo, ed è il principio su cui si basa il carcere, tutti i sistemi di detenzione, dal carcere, il CIE, eccetera. E il prigioniero, sapendo di essere controllato, anche se in quel momento si sta fumando la sigaretta, invece il controllore, cioè la guardia, sta, diciamo, comprime i propri movimenti perché sa di essere controllato. E questo è il meccanismo che poi oggi grava su tutte le metropoli, perché dicono che Londra c'ha 2 milioni di telecamere, probabilmente è vero, e la gente si sente controllata, a Roma ce ne avrà più o meno altrettante, siamo lì, insomma, e tutti quanti ci sentiamo controllati, e questo probabilmente fa sì che introiettiamo anche un meccanismo di controllo che ci fa essere, diciamo, come vorrebbe il sistema di potere, cioè quindi per bene, non ribelli e così via. Quindi è un problema che riguarda non solo il carcere, ma un po' tutta la società. Ecco, quindi a te che impressione ti ha fatto, a parte il cimitero, questo che poi avete, i chiavistelli sono uguali a quelli di oggi. La struttura è molto inquietante, direi, principalmente perché, essendo in un'isola, comunque un ambiente che ha un suo fascino, con dei mari bellissimi, questo panottico non ti permette di vedere il mare, ti permette di sentire questo suono distante, quasi inquietante. Tra l'altro ci sono questi suoni di gabbiani forti che inquietano, per me inquietavano molto, terrore, perché mi immagino questa persona rinchiusa, sola, all'interno di una stanza piccola, il quale non può vedere mai altre persone perché non ha la possibilità di uscire per incontrare altre persone. L'ora d'aria la svolgeva da solo all'interno di un piccolo spazio che c'era all'incerto del panottico. Spicchi, proprio degli spicchi. Esatto, ci sono degli spicchi all'interno, al centro del panottico, dove si svolgevano queste ore d'aria, solitudine, che portano molta inquietudine. Comunque, la struttura molto interessante, ma... terrorizzante, certo. Senti, questa, ecco, l'impressione che secondo voi due hanno avuto gli altri 38, eravate una quarantina, no? Sì. Qual è stata, visto che c'erano provenienze diverse, quindi trasversali, anche diciamo compagni, ma anche non compagni, cioè chi forse non è del tutto contro il carcere, non è per l'abolizione, non lo so io qual era la posizione di quelli che stanno lì, può darsi che c'erano persone che sono per un miglioramento del carcere, alcuni, sappiamo più o meno rappresenta la realtà, diciamo, di un'area sociale, no? Che molti sono per il miglioramento, pensano che il carcere debba essere di rieducazione o di cura oppure di riabilitazione, di reinserimento, altri come noi pensano che vada abolito e passiamo oltre, però ecco, qual era un po' la percezione degli altri? Diciamo che da abolizionisti, Salvatore, eravamo pochi, forse. È difficile farti un po' la spiegazione della compagine, perché ovviamente era mista, c'era una buona parte di quelli che io definisco senza nessun problema di compagni, di noi, molti erano, c'erano anche dei compagni di un piccolo centro sociale di Abbiategrasso che si chiama Il Folletto, che sono venuti tutti attrezzati a fare dei video, quindi aspettiamo anche di poter fruire di tutto il materiale che hanno girato. L'iniziativa lo scorso anno era stata promossa dall'associazione Liberarsi, che ha sede a Firenze ed è a mobilitato i detenuti con la campagna Mai dire mai gli scorsi anni contro l'ergastolo, soprattutto i detenuti ergastolani, quindi insomma è una realtà dell'associazionismo molto impegnata sull'ergastolo. C'erano alcuni ergastolani, tra cui Nicola Valentino dell'edizione Sensibili alle Foglie, che insomma è tra i promotori di questa iniziativa dallo scorso anno. C'erano altre persone che di carcere hanno sofferto diversi anni, lo stesso Beppe Battaglia. Quindi c'era un buon portato di esperienza detentiva con noi, e c'erano anche molte persone che frequentano il carcere oggi perché sono volontari che lavorano magari che da pochi mesi, con ergastolani, e che quindi sono rimasti completamente spiazzati proprio dall'idea dell'ergastolo nel raffrontarsi e rapportarsi quasi quotidianamente, per, diciamo, lavorandoci con degli ergastolani. Vengono al carcere San Gimignano di Spoleto, insomma carceri abbastanza pesanti, sì, dove c'è un alto tasso di ergastolani anche ostativi, e quindi persone insomma abbastanza fresche sull'esperienza carcere, ci si sono ritrovate anche per caso per motivi di studio e di lavoro, e che quindi hanno, per loro penso sia stata un'esperienza molto forte. Quel cimitero fa rabbrividire. Come abbiamo scelto quel posto? Perché non c'è posto più azzeccato al mondo per capire che cos'è l'ergastolo, certo. Perché vedere quei 150 metri che dividono le celle da quella che sarebbe una splendida terrazza su Ventotene è paurosa. Lo scorso anno io ho scritto una cosa che poi ha girato tantissimo perché fa abbastanza impressione, ma a me la cosa che mi sconvolge appunto è l'idea, no, di morte che poteva esserci durante quei funerali. Cioè i detenuti costruivano la bara, i detenuti costruivano la croce, i detenuti scaravavano la fossa, i detenuti andavano in processione, era l'unico giorno in cui si usciva, se c'era un funerale si poteva uscire, quindi tutti in processione al proprio funerale, perché quello è il tuo funerale, quindi è la tua bara, stai costruendo la croce del tuo compagno di prigionia, quindi sarà anche la tua. E quindi è sta sensazione la vivrebbe anche uno di quelli che ha scritto la legge del 41 bis in quel posto, perché lo vedi con gli occhi tuoi la crudeltà dell'ergastolo, certo, in quel posto. Io lo trovo toccante, ci sono nate molte idee poi magari qualcuna che me lo scordo la dici tu, che vediamo se, se potranno nascere da questo posto per cercare di abbattere un po' di più l'ergastolo, più che altro di liberare un po' di persone dal concetto di ergastolo, quello di carcere ancora un po' ci vorrà, cominciamo dall'ergastolo, e quindi ecco la proposta è anche di creare dei territori liberati, no? Come si faceva con i comuni con il nucleare, no? Delle, di cercare di dare un po' zona deergastolizzata, zona libera dall'ergastolo. Sarebbe bello se il comune di Ventotene fosse il primo a sposare quest'idea, visto che è un'isola di confine e ha quel carcere davanti. Ecco, questa è un'idea un po' romantica, un po' poco militante, nel senso per come vediamo noi, però è molto simbolica, no? Il poter creare delle zone completamente libere dal concetto d'ergastolo, zone dove l'ergastolo, insomma, se viene dato non è in nome dei cittadini di quella piccola comune. E Ventotene, insomma, con tutto quel suo vissuto, potrebbe essere un buon punto di partenza. In più c'è tutta una polemica sulle croci che abbiamo messo, cioè che non abbiamo messo, scusate, le croci ci sono, le croci c'erano già, c'erano 47 croci e noi abbiamo avuto, ovviamente abbiamo messo questi 40 nomi senza fare differenze, anche perché le storie di questi 40 ergastolani non è che le conoscevamo quasi nessuna, se non quella di Gaetano Bresci, e quindi il nome di Gaetano Bresci è su una croce, cosa che ha rischiato di farci linciare in questi giorni, perché ovviamente anarchici di tutta Italia ci hanno scritto perché non avete tolto quella croce. Noi non l'abbiamo tolta quella croce, perché fa parte di 40 croci e perché fa parte di quel carcere, quindi non c'è proprio venuto in mente sinceramente di togliere quella croce, però ecco, magari stiamo pensando di portare per Bresci un altro simbolo anche accanto a quella croce. Ci piacerebbe portare un marmo da Carrara che possa, come a Carrara, ma salutarlo lì, insomma, di idee su quel nessuno posto. Nessuno di quelli ergastolani lì era cattolico, quindi il problema della croce però non rappresenta, credo almeno per quella, avendo conosciuto anche il carcere, non quello di Ventotene, ma normalmente la croce quando si muore in carcere non rappresenta il credo della persona che è morta, ma è un po' un simbolo della morte, è il simbolo della morte per quest'area del mondo, chiunque, quindi lì era, e poi gliel'hanno messa i propri compagni di cella, che probabilmente erano anche loro o atei o anarchici, quindi non è quel, c'erano molti anarchici a quel tempo, non c'era solo Bresci, quindi era un problema di simbolo della morte. Ecco, io a proposito di questo volevo fare un'altra domanda, è la morte, quindi il cimitero, però c'è anche una rappresentazione ancora più drammatica della vita, perché ci sono intorno a quel ferro di cavallo, quindi al vero e proprio ergastolo, una serie di tutti i servizi che rappresentavano la vita di questo ergastolo, c'era la lavanderia, il forno, perché era una micro società purtroppo chiusa, cioè che non aveva possibilità mai di uscire, e che lì dentro si riproducevano tutte le, ovviamente falsate, tutte le attività che in una società normale si realizzano, il lavoro, il forno per fare da mangiare, l'orto, c'erano gli orti per fare, quindi è questo meccanismo anche della vita separata, cioè di una micro società separata dalla società reale, che poi è il concetto reale del carcere. Il carcere in fondo separa, noi non sappiamo quelli che stanno a poche centinaia di metri da qui a Re Bibbia, ci stanno 1800 persone, quindi un bel numero, eppure la gente che vive in quel quartiere non sa chi sono quegli esseri umani, uomini e donne che stanno lì dentro, vivono una realtà separata, chiaramente qualcuno farà solo pochi mesi, due anni e poi esce, però nel momento che sta dentro vive una realtà separata, costruendo tutte quelle dinamiche finte purtroppo che si fa in carcere, che però tentano di mimare quello che è la realtà esterna che un cittadino, una persona ancora libera, formalmente libera, ha. Ecco, che impressione ha fatto anche questa riproduzione di una micro società chiusa dei quali poi avevano la possibilità di produrre comunque l'orto, avevano la possibilità anche negli ultimi anni dell'esistenza di questo carcere di Ventotene anche di andare a pescare, certo, tra l'altro. Però tutto ciò che producevano, un terzo doveva essere devoluto per Ventotene, per l'isola di Ventotene. Non era per, naturalmente, tutto per i carcerati, sicuramente. L'idea di avere una possibilità comunque di poter uscire, pescare, sicuramente dava qualcosa in più per queste persone. Anche se l'idea di vivere in uno spazio come di questo genere è un terrore, cioè non si può, cioè, creare questa finta aspettativa a certe persone, cioè è un dramma maggiore, certo, perché crei una finta aspettativa, crei una finta possibilità di poter fare qualcosa di più che che non si realizza naturalmente, soprattutto dato da questo cimitero che si sorveglia dall'alto, perché è imposizionato in una parte un po' più alta rispetto alla prigione. Certo, è come se ti dice ti aspetto qui, ti esatto. aspetto qui. Va bene, non so. Io ti volevo solo raccontare una cosa, perché quello è un carcere che per 8 anni ha vissuto un'esperienza particolare, è stato un po' un esperimento di un direttore, usiamo la parola illuminata per quanto può essere un direttore di un carcere, di cui abbiamo avuto la fortuna di conoscere il figlio, che su quell'isola ha passato 8 anni della sua vita, ci è salito a sei mesi, è andato via 8 anni. Vabbè, questo ovviamente ci ha permesso di avere dei racconti di tutt'altro genere, no, di quell'isola. Racconto questo per dire solo che lui è stato cacciato da Tambroni, da quel posto, ma sperimentò molte cose con quei detenuti, fu molto amato da quei detenuti, tanto che gli promisero pure che non avrebbero tentato nessuna fuga finché lui fosse stato direttore. Infatti, appena è stato cacciato via da Tambroni, neanche 2 mesi dopo ci sono state 3 evasioni. Lui addirittura sperimentò, e andò benissimo per tutti quasi gli 8 anni del suo lavoro lì, i colloqui prolungati di 24 ore, questo ci tengo a sottolinearlo, perché adesso è una follia anche solo pensarlo, ma lì c'erano delle strutture, parlo dal 54 al 60, che c'era Tambroni, quindi 8 anni, scaliamoli dal 60, e adesso è follia anche solo pensarlo. Lì gli ergastolani potevano non solo incontrare le loro mogli e i loro figli per 24 ore, quindi con tutto ciò che concerne nell'affettività, ma potevano addirittura conoscere donne nuove, nel senso che dopo un po' di mesi di legami di penna con delle persone dal continente, come si dice in isola, il direttore permetteva addirittura l'arrivo di queste sconosciute per incontrare la prima volta e iniziare a creare legami. Insomma, c'è stata anche una piccola parentesi di vita meno dura, certo. In cui anche delle persone sono riuscite a essere graziate, e lui cercò di fare delle battaglie, ovviamente non per abolire l'ergastolo, non era nella concezione di quell'uomo, ma per, insomma, come si può dire, anche renderlo perché più... non poteva farlo l'ergastolo, lo può abolire il Parlamento, no, cioè, certo, però no, il suo testo non è che è un testo abolizionista, chiaro, assolutamente era di quel percorso che c'è, poi in quegli anni nel dopoguerra c'era tutta la parte che poi in parte sono quelli che hanno scritto sulla Costituzione, quelle belle parole che vengono richiamate sempre e che ovviamente non valgono per niente, tipo il carcere non deve avere trattamenti degradanti eccetera, che è proprio il contrario di quello che è, perché erano quelli che appunto probabilmente quel tipo, diciamo, quel personale politico che veniva dall'antifascismo aveva conosciuto il carcere, l'aveva pure sofferto, e quindi non voleva riprodurre, non era per l'abolizione, ma non voleva riprodurre le brutture del carcere che loro stessi avevano subito, lo stesso Pertini, lo stesso Calamandrei, che proposero delle riforme talmente innovative che chiaramente ADC ha detto le saluto ragazzi, e ancora le stiamo aspettando perché non esiste, chiaramente poi l'ADC è diventata il partito totale, oggi è tutto democristiano, no? Dall'estrema sinistra all'estrema destra, quindi non c'è problema, le cose rimangono immobili perché tale deve essere. Ecco, quindi probabilmente era frutto di quel pensiero, il tentativo di aprire il carcere alla società, tentativi fatti più o meno sempre falliti, se non appunto piccole cose. Il problema per noi rimane un interrogativo, se vale la pena utilizzare le energie, quelle poche che ci stanno nella società, per appunto aprire il carcere, oppure per provare ad abbatterlo definitivamente, a superarlo. Questo però è un problema che lasciamo aperto, e che intanto è importante produrre queste iniziative per mettere con la cosiddetta opinione pubblica di fronte a una mostruosità che in nome suo viene fatto, cioè oggi oltre 1500 persone sono condannate a morire in carcere perché l'ergastolo ostativo, a meno che non diventi delatore e mandi altra gente a posto tuo, chiaramente rimani lì dentro e esci solo con la tomba, con la morte. Bene. Noi invitiamo a chiunque avesse notizie su quel posto. Noi in 3 giorni abbiamo già trovato un nipote di un nonno disperso per 60 anni. Queste sono, ovviamente non ti rubiamo la trasmissione, ma in 2 giorni potremmo già rubarti la trasmissione di aneddoti particolari, tra bene. Cui un nipote che adesso è un signore che da 60 anni cerca la tomba del nonno di cui porta il nome, ergastolano, morto lì. E questo allora possiamo utilizzare. Sono storie strane. È chiaro, questo. I microfoni, chiunque voglia, c'ha delle conoscenze, oppure trova, che ne so, le fotografie nella famosa scatola di scarpe del nonno, eccetera, qualcosa. Noi facciamo, fra un po' metteremo su un sito, che, di cui ancora non abbiamo un nome, ma insomma. Per ora si può utilizzare la mail di questa trasmissione, che è la conta tutto attaccato @andorossa.it, quindi punto info, scusate. E quindi potete scrivere anche aneddoti che avete sentito, oppure racconti del nonno, cose di questo tipo, racconti dell'anziano del paese, perché molta gente c'è transito. Cerca proprio di creare una storia a queste persone. Certo, certo. Naturalmente non a Brescia, che sappiamo già abbastanza. Di Brescia sì, di Mariani. Abbiamo 38 tombe là di cui vogliamo cercare di trovargli una storia. No, certo. Più che altro abbiamo 47 nomi, no, ma possiamo immaginare su 200 anni di carcerazione quanti morti ci sono, sarebbe anche da capire dove sono, se nel carcere, se nel cimitero di Ventotene o no, si parlava di una fossa comune, insomma c'è una storia da scrivere in quel posto, sia dei tanti ergastolani che ci sono passati, sia proprio di come era la gestione di quel carcere, dove è finito l'archivio, pare sia chiuso a casa, insomma c'è un mondo che magari riproporremo a questi microfoni quando ci saranno novità, e speriamo che anche da questi microfoni possiamo ricevere qualche informazione in più su quelle celle. Ok, quindi l'appello lo facciamo, aspettiamo così notizie da tutto il mondo che ha avuto a che fare in qualche modo con questo carcere, con questo e anche con altri, perché poi gli ergastoli erano tanti e sono ancora tanti. Spoleto per esempio è uno di questi, sta qui a due passi da Roma, voglio dire, quindi va bene. Io vi ringrazio di questa testimonianza, spero che sia servita a, credo di sì, insomma, a chi ha ascoltato, per capire la mostruosità di cui ancora oggi non nostro, di tutti e tutte, lo Stato fa, perché lo Stato massacra, brutalizza, tortura, perché secondo me l'ergastolo è una vera e propria tortura, ma non lo dico solo io, lo dice pure Amnesty International, quindi gente di al di sopra di ogni sospetto, lo fa in nome nostro, e questo ci dovrebbe far perlomeno un po' incazzare, più che indignare, ci dovrebbe far molto incazzare e dire perlomeno non lo fa, non in nome nostro, ecco, visto almeno questo, e quindi prendere iniziative per dire questo. Vi ringrazio e alla prossima. Ciao. E allora, 15:35, dopo aver parlato di questa iniziativa contro l'ergastolo che si è svolta alla carcere di Santo Stefano, presso l'isola di Ventotene, il fine settimana scorso, o venerdì e sabato, passiamo a un altro problema. È un problema che sta emergendo in tutta la sua mostruosità, altrettanto, ormai quando si parla di carcere l'aggettivo più semplice che viene è quello di mostruosità. E purtroppo viene, come spesso le cose più mostruose vengono contrabbandate oppure incartate con bei fiocchetti, bei colori e con linguaggi anche che sembrano far pensare a qualcosa di gradevole. Quello di, intanto salutiamo il gruppo d'ascolto del Franco e i suoi amici del G11 di Rebibbia, che pensiamo ci stiano ascoltando, e quindi li salutiamo e ovviamente gli auguriamo buona libertà come a tutti e tutte le altre. Bene, quello che sta emergendo è un progetto che ha un nome appunto accattivante, Soft. Soft richiama qualcosa di soffice, leggero, no? È una parola inglese però molto usata dappertutto. Il soft è qualcosa di non aggressivo, dà l'idea di qualcosa di leggero. Purtroppo poi se andiamo a vedere, è l'acronimo di una frase, di un qualcosa. Soft sta per Sex Offenders Full Treatment. Ora, lasciate stare la pronuncia inglese che lascia desiderare, ma il concetto è quello, no? Cioè il trattamento completo, totale, per i sex offender. I sex offender sono le persone detenute per aver fatto violenze sessuali, abusi sessuali. Bene, ora il problema è estremamente grave perché facendo leva su qualcosa che chiaramente ripugna l'opinione pubblica come i reati di violenza sessuale, coloro che propongono questo percorso in realtà appunto vogliono avere il consenso dell'opinione pubblica, il consenso sociale, per poi far passare il concetto di medicalizzazione su tutta la popolazione prigioniera. Qual è l'idea che ispira questa? È un'idea molto vecchia, purtroppo non è nemmeno nuova, addirittura risale a Lombroso, cioè al positivismo ottocentesco, cioè quella che i detenuti che fanno delle trasgressioni sono persone malate. Non è vero che abbiano deciso, scelto di fare chi la rapina, chi il furto, chi un'altra cosa, ma sono delle persone malate, quindi vanno curate. Questa è l'altra concezione, diciamo, buonista, per usare un termine oggi in voga, che si contrappone a quella cattiva. I cattivi dicono, no, se voi leggete i giornali della Lega, della destra italiana, da sempre, non da oggi, da sempre, dicono quella ha fatto un brutto reato, chiudiamo la chiave e buttiamo la chiave, no? Si dice così volgarmente, e quindi lasciamolo in galera a vita. Invece i buoni dicono no, non è così, non bisogna fare questa cosa, e quindi propongono che vanno curate, le persone in carcere vanno curate. Se uno trasgredisce le regole di questa società, che per definizione è ritenuta la migliore possibile, questo è l'unico mondo, è il migliore possibile, così ci hanno insegnato fin da bambini, per fortuna non ci abbiamo creduto, insomma, chi trasgredisce le regole di questa società chiaramente è una persona malata e quindi la curiamo. Ora, loro partono chiaramente per avere appunto un consenso intorno a questa operazione, dal punto di massima, impatto che hanno nei confronti del pensare comune, no? I sex offenders, appunto i detenuti che hanno compiuto violenza sessuale, sono le persone più invise, anche tra i carcerati, infatti vivono in situazioni molto spesso separate dai reparti di normale detenzione. Perché appunto sono odiati anche dagli altri detenuti. Ecco, quindi facendo leva su questo vogliono però far passare un principio che poi, come è già successo, perché questa cosa non è nuova, già negli anni 90 fu sperimentata in Canada e poi anche in alcuni stati degli Stati Uniti, con esiti drammatici, vi diremo. Allora, che cos'è? Vediamo, intanto la cosa è partita da qualche tempo fa, purtroppo veicolata da ambienti che... di quell'area che una volta, che ne so, che ancora qualcuno, o forse anche noi se volete, comunque per pigrizia mentale chiamiamo di sinistra, di un ex sinistra, cioè dell'area del PD. Infatti l'ha proposta questa, se ne è fatto promotore, non è che l'ha pensata né proposta lui, però se ne fa promotore il garante dei detenuti del Lazio, che è appunto Angelo Maroni, un uomo del dell'area PD, insomma, no? Coinvolgendo il centro igiene mentale, il responsabile della dell'amministrazione penitenziaria del Lazio e così via. Il progetto in che cosa consisterebbe? Quello di fare un esperimento pilota che ha anche un costo stanziato per ora in 630.000 euro e dovrebbe riguardare le carceri di Rebibbia, quindi qui a Roma, Cassino, queste due nel Lazio, e poi l'altra Secondigliano e Poggioreale in Campania, Bollate e Opera e San Vittore in Lombardia e anche nelle Marche il carcere di Pesaro. Il programma sarebbe di prendere queste persone e fargli un trattamento, appunto full treatment, un trattamento totale. In cosa consisterebbe questo trattamento? L'equipe che dovrebbe trattare queste persone è fatta di, si dicono tante belle, lo yoga, la musicoterapia, l'equipe multidisciplinare, eccetera, psicologi, eccetera, però poi l'elemento centrale in questa equipe che sappiamo per esperienza, perché appunto è già successo e per ovvio che prenderanno il predominio in questa equipe, è invece un insieme di psichiatri e criminologi. E quindi ancora una volta la psichiatria che entra come elemento di controllo, di tentativo di controllo del comportamento umano. Quindi sarà prevalentemente un discorso psichiatrico, anche perché nel diciamo presentare questo progetto hanno detto appunto che verranno fatti trattamenti strani come yoga, musicoterapia, che però non avranno nessun significato e probabilmente verranno abbandonati subito. Invece l'uso dei farmaci, gli psicofarmaci, quindi psicofarmaci per addormentare, per spegnere parti del cervello. Il concetto qual è? Tentare di controllare gli impulsi delle persone. Ora, gli impulsi delle persone, è una parola così, dove stanno gli impulsi, dove risiede l'impulso di una persona, così come il comportamento. Gli psichiatri hanno sempre avuto la mania, modelli, preti, nuovi preti, diciamo delle società laiche, i preti una volta avevano la presunzione, i preti di tutte le religioni, avevano la presunzione di controllare i comportamenti delle persone e quindi sono stati grossi elementi di stabilizzazione di tutte le religioni, nessuna esclusa, di tutte le società autoritarie. In società laiche il prete ha poca presa sulla gente, quindi si usa quest'altro prete, lo psichiatra. Lo psichiatra è quello che ti controlla, che ha la presunzione di controllare i tuoi comportamenti, ma non solo quelli passati, dicendo perché tu hai trasgredito la legge, perché hai fatto quella cosa che non dovevi fare, ma anche quelli futuri. Cioè io prevedo, dice lo psichiatra, prevedo, analizzando non so come il tuo stato, di prevedere che tu farai queste cose o ne farai altre, e quindi opero su di te, sul tuo cervello, spegnendolo, accendendolo, appunto prevalentemente con l'uso dei psicofarmaci, spesso usano anche l'elettroshock e altre diavolerie del genere, controllo quindi il tuo, sia spiego il perché hai fatto delle cose, sia controllo il tuo comportamento successivo, prossimo. Ecco, questo è il progetto che vi sono parecchie agenzie che l'hanno, quella che abbiamo letta è un ADN Kronos del 18 giugno scorso, quindi una settimana fa, nemmeno dieci giorni fa, e poi l'hanno ripresa tutte le altre agenzie, e poi ci sono anche alcuni giornali ne hanno parlato, messa così, raccontando quella che i presentatori di questo progetto hanno raccontato. I presentatori di questo progetto sono partiti da un concetto, hanno detto coloro che, questi sex offenders, cioè coloro che hanno fatto dei reati sessuali e che quindi stanno in carcere condannati a tot anni eccetera, quando poi a fine pena escono, presentano la recidiva, cioè reiterano quello che hanno fatto, e questo succede un po' in tutti i detenuti che escono, no? Ora, invece di porsi la domanda se, che è quella decisiva che poi ti fa dire il carcere non serve, anzi addirittura è negativo, che probabilmente è proprio il carcere, cioè il privare una persona di relazioni sociali, qual è appunto il carcere, disinserirla dalla realtà relazionale che ha, estraniarla, separarla, che porta le persone in carcere a incattivirsi e quindi a reiterare il reato, ma anche a non avere altre possibilità spesso di iniziare un altro percorso di vita, e quindi hanno valutato che la recidiva di questi sex offender è in del 17%, quelli che fanno, hanno fatto reati sessuali, intorno dopo 5 anni, del 20% dopo 10 anni, e però, e questo è l'elemento importante, la percezione pubblica, che è un termine che non ha nessun senso, nessun valore scientifico. Che cos'è la percezione pubblica? Quello che la gente, la cosiddetta opinione pubblica, pensa, ma all'opinione pubblica rispetto a categorie che non può controllare, a fatti che non può controllare, pensa delle cose in base a ciò che vede dalla televisione o che legge dai giornali. Perché come si fa a dire, ad affermare che la percezione pubblica della recidiva dei sex offender, cioè dei coloro che hanno fatto reati sessuali quando escono dal carcere, è alta e addirittura viene stimata nel 62%. Che cos'è quella percezione? La percezione della gente è quella che la televisione mette in bocca, mette nella testa della gente. E qui è perché non è che hanno degli strumenti per poter andare a controllare laddove la gente. Comunque più o meno è una recidiva che è simile a tutte le altre tipologie di reati, usiamo questo termine loro. Quindi dice, siccome appunto la recidiva è molto alta, che però appunto è il 17% entro i primi 5 anni, e sale al 20-30% intorno ai 10 anni, quindi dopo 10 anni aumenta la recidiva, poiché c'è questo elemento e poiché la gente è spaventata, perché appunto la percezione, dicono la percezione, cioè un dato quindi non reale, è oltre il 60%, bisogna operare su questi, come con la medicina psichiatrica, cioè quindi una falsa medicina, perché non è che hanno un qualcosa di concreto da poter correggere, è solo appunto un comportamento, controllare gli impulsi delle persone. Questa è la grande assurdità, no? che appunto gli psichiatri in questa equipe pensano di poter realizzare. Il progetto è stato tentativi analoghi sono stati fatti già negli anni 90 in Canada e in alcuni stati degli Stati Uniti, con effetti devastanti, perché in realtà questi trattamenti cosiddetti a queste persone alla fine sono diventati tout court, trattamenti con gli psicofarmaci, hanno spento parti del cervello, hanno annientato queste persone con gli psicofarmaci e quindi hanno fatto uscire dal carcere degli zombie, inutili per qualunque tipo di attività umana, sociale, relazionale. Poi e poi non solo, ma l'avvio verso con gli psicofarmaci significava tenere queste persone costantemente, fino al giorno della morte, sottoposti a psicofarmaci, perché se veniva interrotto invece la somministrazione degli psicofarmaci, la persona appunto poteva, addirittura ritrovava una situazione devastante che lo psicofarmaco gli aveva prodotto. Quindi diventano appunto anche questi ergastoli sostanzialmente, cioè persone controllate a vita attraverso l'uso degli psicofarmaci. È una cosa tremenda, che si vuole, tremenda per nella sua fattispecie, perché appunto, come sappiamo, è un tentativo che da sempre cercano di portare avanti, partendo dalle categorie più invise alla popolazione, appunto i sex offender, cioè coloro che si sono resi responsabili di violenze sessuali, per poi estendere a tutta la popolazione, quella che è la medicalizzazione della devianza sociale. Ancor di più sarà in prospettiva la medicalizzazione della sovversione sociale, cioè della rivolta. E questo non è un fatto nuovo, attenzione, perché se ci ricordiamo bene, se conosciamo la storia del carcere italiano, ma anche di quello dove sono successe le rivolte, quindi italiano, negli Stati Uniti, in parte in Francia, in qualche caso in Inghilterra, eccetera, quindi conoscere la storia è sempre una cosa di cui non si può fare a meno, sappiamo che in Italia, per esempio, nelle prime rivolte, che credo che chi ascolta questa trasmissione saprà, perché ne abbiamo raccontata più volte la storia del carcere italiano e delle rivolte che hanno caratterizzato tutto il decennio 70, le rivolte sono iniziate proprio negli anni nel 69, in sintonia con la rivolta sociale che infiammava le università, le fabbriche, le piazze, i quartieri. La punizione per i rivoltosi in carcere era, oltre alle condanne, appunto, considerate che la prima, e qui parliamo di un tema attuale, la prima condanna nel dopoguerra, quindi il riesumare una categoria del codice rocco fascista, del codice fatto nel 30 da Rocco, il guardasigilli, cioè il ministro della giustizia di Mussolini, e firmata da Mussolini, il codice fascista che abbiamo in Italia è ancora quello firmato da Mussolini, con delle piccole modifiche, ma non tante. Bene, nel 69-70, nelle prime grosse rivolte che partirono appunto dalle Nuove di Torino, poi San Vittore, poi anche nel 72 qui esplose Re Bibbia, e poi la rivolta si infiammò a Bari, a Palermo, in tutta Italia. Disse alcuni storici, la rivolta ha unificato il paese per la prima volta, cosa importante. Bene, le punizioni, oltre due furono le punizioni date verso questi rivoltosi. Uno, i giudici riesumarono dal stantio e logoro codice Rocco, codice fascista firmato da Mussolini, la categoria di devastazione e saccheggio. La categoria di devastazione e saccheggio per la prima volta in questo paese dal dopoguerra, da quando è avvenuta la cosiddetta liberazione, da quando questo Stato è diventato repubblicano democratico, fu ripresa per condannare i rivoltosi, perché quando fai una rivolta in carcere, insomma, qualche devastazione si dà, il saccheggio non si dà, ma la devastazione sì, perché devi sfasciare delle cose, se non altro per barricarti, per resistere un po' all'arrivo della polizia, delle guardie, eccetera. E quindi la categoria di devastazione e saccheggio fu usata proprio nelle prime rivolte carcerarie. Parentesi, devastazione e saccheggio viene usata oggi, cioè è stata usata, riusata in maniera del tutto anomala per le mobilitazioni, le manifestazioni del luglio di Genova 2001, esattamente 11 anni fa, quando per le manifestazioni contro il G8 di Genova ci furono 300.000 persone che in modo diverso protestarono contro quel vertice che condannava alla miseria quello che poi è stato, diciamo, le popolazioni povere e i poveri all'interno delle nazioni ricche, insomma, che peggiorava le condizioni di vita delle classi subalterne. Ecco, quelli che protestarono in modi diversi, 10 di queste persone sono state prese e condannate per devastazione e saccheggio, perché alcune vetrine rotte, alcuni bancomat sfasciati, per i giudici ravvisavano il reato di devastazione e saccheggio. Quindi, come vedete, la storia del carcere poi c'entra e molto con la realtà del conflitto sociale, e quindi queste persone, 10 persone, rischiano pene per un totale di circa 100 anni, 98 anni di galera, il 13 luglio prossimo, quando andrà in Cassazione il loro giudizio di condanna, che va dai 10 ai 15 anni, per un totale di 98 anni, appunto il 13. E su questo, ricordiamo, c'è in corso la campagna 10%, 10 persone per 100 anni di galera, dal titolo Genova non è finita, perché appunto dobbiamo almeno difendere queste 10 persone. Ecco, quindi, per dire, primo punto che dalle rivolte del carcere riesumarono per chetare, perché se ti danno solo danneggiamenti quando fai una rivolta del carcere ti prendi pochi mesi, quindi non è tanto deterrente, no? Invece tirano della stazione di saccheggio, davano 15 anni di galera, e chi ci aveva pochi anni da fare, insomma, era tanto. E poi l'altra cosa che tirano fuori è la punizione immediata. E quelli individuati come i capi di queste rivolte in carcere, nei primi anni 70, quindi 69, 70, 72, 73, una grossa ripresa dell'ondata di rivolte, venivano mandati negli OPG, perché venivano ritenuti persone disturbate. Ora, uno che organizza e dirige una rivolta dovrebbe essere non disturbato, ma anzi capace, razionale, perché non è facile, chi l'ha fatto me lo può dire tranquillamente, con, come dire, con dovizia di particolari, con cioè, fare una rivolta, organizzare una rivolta non è facile, ci vuole una grossa razionalità, calma e capacità organizzative. E invece venivano, chiaramente era soltanto un tentativo così di tortura, venivano mandati gli OPG legati al letto di contenzione. Addirittura in molte carceri c'erano delle stanzette con letto di contenzione, legavano i capi della rivolta, così ritenuti, nel letto di contenzione come deterrente, cioè come li torturavano in realtà. Ecco, quindi torniamo quindi all'uso della psichiatria nei confronti del ribelle. Categorie, diciamo, sul piano giuridico venivano condannati in base a leggi fasciste di 50 anni prima, fatte appunto in periodo fascista, come devastazione e saccheggio, che è esattamente una categoria tutta fascista, cioè chi quei giudici che hanno condannato chiaramente questi compagni per devastazione e saccheggio per una manifestazione, è chiaro che hanno un'impronta che risale a quel modello culturale, quello appunto fascista, e non, c'entra, cioè non ha niente a che vedere con uno Stato di diritto, con un sistema liberale del concetto di conflitto e punizione. Vabbè, comunque. E poi appunto la psichiatria che ritorna, vedete, ritorna oggi partendo dai punti estremi, no? dai sex offender, riutilizziamo la psichiatria, quindi letto di contenzione. Il letto di contenzione è una contenzione meccanica, ma la contenzione attraverso lo psicofarmaco ha lo stesso valore, anzi insomma, più o meno dello stesso carattere devastante. Si devasta una persona, si distrugge una persona, si tortura una persona perché non faccia più quella cosa. Ecco, questo è il meccanismo per dire che c'è questo rapporto, questa osmosi molto precisa e netta tra il carcere e ciò che avviene fuori. Ciò che avviene fuori è il carcere, il conflitto e l'esistenza del carcere e della punizione. Ecco, questa cosa torneremo a parlarne perché è una questione che pensiamo debba coinvolgere la popolazione, coloro che non vogliono accettare di subire angherie di questo tipo. Già il carcere per sé è un'angheria tremenda, ma addirittura se passa la medicalizzazione per coloro che, per i detenuti e le detenute, sarà veramente la devastazione delle menti delle persone. Abbiamo denunciato questa cosa, che poi vedremo di farne una campagna di grosso significato, di grosso spessore, perché questa va interrotta con ogni mezzo necessario, altrimenti siamo, la psichiatrizzazione della società è un processo che sta andando avanti, l'abbiamo visto nell'altro settore, la chiusura dei 6 OPG, manicomi criminali ancora esistenti, che il governo ha stabilito debba avvenire entro il 31 marzo del prossimo anno, produrrà probabilmente la diffusione sul territorio di tanti micro OPG, quindi la psichiatrizzazione ancora una volta, perché poi verranno messi ambulatori psichiatrici in ogni carcere, non ci saranno più questi grossi OPG che sono dei veri e propri lager, però comunque saranno casomai meno lager, poi non tutto da vedere, però staranno in ogni carcere, ci sarà l'infermeria normale e l'infermeria psichiatrica, già avvengono questi fatti, quindi il processo di controllo psichiatrico della devianza, che sia diciamo di carattere sociale o di carattere politico, quindi legata al conflitto sociale, al conflitto di classe, oppure legata alla volontà così di appropriarsi dei beni altrui. Ebbene, questo processo sta andando avanti in maniera abbastanza pesante e grottesca. Quindi questo è solo un appello, poi cercheremo di dettagliare tutte le proposte che per ora però sono molto queste che abbiamo letto, entreremo più nel merito. Il tentativo è veramente subdolo e feroce, e tra l'altro, così come è successo per il pacchetto sicurezza, cosa ancora più drammatica e vergognosa, si tenta di utilizzare il corpo delle donne, come vi ricordate al tempo del pacchetto sicurezza venne contrabbandato come tentativo di fermare le, utilizzando un fatto di cronaca che era successo, l'aggressione a una donna da parte di alcuni, si disse allora, immigrati, poi non si sa mai cosa era vero, comunque utilizzando un fatto di cronaca si disse facciamo il pacchetto sicurezza, quindi aumentiamo il controllo poliziesco sul territorio per garantire, no, la incolumità delle donne. La stessa cosa si sta facendo adesso, no? Per garantire appunto la diminuzione delle aggressioni sessuali, delle violenze sessuali, psichiatrizziamo alcuni settori della popolazione detenuta, cominciando da quelli, i cosiddetti sex offender, ma poi passando a tutte le altre categorie. Quindi è una cosa di estrema pericolosità che dobbiamo assolutamente combattere, vedremo come fare, adesso intanto allertiamo tutti e tutte. Allora, sono le 15:59 e 50 secondi, quindi le 16 meno una manciata di secondi che stanno rapidamente scorrendo, quindi siamo alle 16 in punto, termina quindi la trasmissione della Conta di quest'oggi. L'appuntamento che vi diamo è per